Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è quindi atteso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Questa ambizione è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà una spinta alla crescita. Insomma, avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dell'economia Padoan, che ha parlato appunto poco fa nel file che vi ho fatto sentire, ha parlato oggi, replica a chi ieri è stato piuttosto critico sulle previsioni del governo sulla crescita del 2017 di un più 1% del PIL. Banca Italia, ma anche altri hanno detto, ma insomma, sembra piuttosto ambiziosa questa previsione, e avete sentito, Padoan ha detto no, l'ambizione ce l'abbiamo e potrebbe essere fondata, ma parleremo di molte cose stasera, come sempre qui a Effetto Notte, dopo il riassunto della giornata. Ci occuperemo di politica ancora, perché oggi il Movimento 5 Stelle ha compiuto 7 anni. Qual è il bilancio di questi 7 anni? Di Maio, molto soddisfatto, ha detto che questo percorso che ha iniziato almeno 11 anni fa porterà al governo il Movimento 5 Stelle, però diciamo continua la grana della giunta capitolina per l'assessora Muraro, che però dice di avere assolutamente il sostegno della sindaca Raggi. Anche qui, come mai diciamo una situazione così per certi versi anche imbarazzante non viene in qualche modo liquidata dal Movimento 5 Stelle? Ne parleremo, così anche come parleremo di questa nuova perizia che sarebbe stata fatta sulla morte di Stefano Cucchi, una vicenda che va avanti purtroppo da anni, ennesima perizia. Pare, secondo questi periti, che sia morto per una morte improvvisa per epilessia, anche se l'avvocato della famiglia Cucchi, che avremo più tardi, dovremo raggiungere a Effetto Notte, smentisce questa versione. Insomma, comunque ne parleremo. Prima di tutto però vi racconto la giornata in sintesi, e poi lo sapete che per interagire con Effetto Notte c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Conti pubblici, il ministro Padoan replica alle critiche e conferma il PIL a più 1% dal Fondo Monetario, ancora però un taglio della stima di crescita dell'Italia. Il caso Cucchi, una nuova perizia dice che è morto per epilessia, la sorella replica furono le fratture dovute al violento pestaggio, a Effetto Notte il legale della famiglia Cucchi. La visita sorpresa del Papa nei comuni terremotati, non sono venuto prima per non dare fastidio, ha detto, e prega in silenzio tra le macerie. Migranti, dopo gli oltre 6.000 di ieri, anche oggi nel canale di Sicilia ne sono stati salvati 1.800. I 7 anni del Movimento 5 Stelle, Grillo, Casaleggio a Roma festeggiano il compleanno, siamo più forti che mai, dice il leader. E intanto l'assessora Muraro dichiara, ho il pieno appoggio della sindaca Raggi, ma il Movimento 5 Stelle studia forse un exit strategy. Le presidenziali americane, nei sondaggi Hillary Clinton torna in vantaggio e Assange, cofondatore di Wikileaks, annuncia rivelazioni. Editoria, la riforma è legge. Nobel per la fisica va alla scoperta del volto esotico della materia, il premio ai 3 britannici che aprirono le porte a nuovi materiali. E partiamo quindi dalle considerazioni sulle previsioni che riguardano la crescita dell'economia italiana. Arrivano le rassicurazioni del ministro dell'economia Padoan, nel frattempo però il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita. L'Italia nel 2017 può farcela, il prodotto interno lordo aumenterà dell'1% e non è una scommessa. Piercarlo Padoan difende a spada tratta le stime di crescita approvate dal governo la scorsa settimana e bollate ieri come troppo ottimistiche da Banca Italia e dall'ufficio bilancio della Camera. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è teso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Il PIL programmatico non è una scommessa. Il prossimo anno, ha spiegato Padoan nell'audizione in commissione bilancio della Camera, la crescita sarà stimolata da un mix di interventi che agiscono su politica di bilancio e riforme strutturali. Critiche le opposizioni. Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta, invita il governo a rivedere le stime o sarà scontro con l'ufficio bilancio della Camera e l'Unione Europea, che deve dare il via libera alla manovra 2017. Il Fondo Monetario Internazionale intanto lima al ribasso le stime di crescita del PIL, che salirà quest'anno dello 0,8%, nel 2017 dello 0,9%, rispettivamente 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime di luglio e 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su un occhio le borse europee, che hanno chiuso in rialzo a Piazza Affari, però gli istituti di credito si sono mossi in modo contrastato all'indomani del vertice tra il ministro Padoan, il governatore della Banca d'Italia Visco e i top manager dei primi tre gruppi nazionali. Unicredit e Banca MPS sono scivolate mentre è proseguita la corsa di Popolare di Milano a meno di due settimane dalle assemblee decisive per varare la fusione BPM e Banco Popolare. Oggi la giornata del credito è stata, si è discusso anche di possibili tagli al personale. Sentiamo il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Ogni banca ha bisogno di una cura adatta alla sua situazione, alla sua circostanza di mercato. Per alcune banche indebolite dalla crisi può essere necessaria una cura dimagrante, anche purtroppo in termini personali. E spostiamoci adesso sul caso Cucchi, una nuova perizia, vi dicevo, nell'inchiesta bis sulla vicenda della morte del 31enne geometra romano. Dice questa nuova perizia che Stefano Cucchi sarebbe morto per epilessia. La sorella Ilaria però replica e dice: furono le fratture dovute al violento pestaggio, una vicenda che ha visto vari processi, diverse persone coinvolte, per capire a che punto siamo effettivamente, cosa comporta questa nuova perizia e se appunto è fondata, effetto note. Dovremo raggiungere tra poco il legale della famiglia Cucchi. E c'è stata anche la visita del Papa a sorpresa nei comuni terremotati. Oggi la terra è tornata a tremare vicino Norcia con una scossa di magnitudo 3,6 proprio mentre Francesco visitava quei luoghi. Per gli abitanti dei comuni colpiti è stato ovviamente un giorno speciale. È arrivato ad Amatrice di buon'ora a bordo di un'utilitaria. La prima tappa di Francesco è stata la scuola prefabbricata ai margini della città. I bambini delle materne e delle elementari e i ragazzi delle medie lo stavano aspettando. Il Papa ha raccolto in dono i loro disegni e ha ascoltato le loro storie. Più volte Francesco aveva manifestato l'intenzione di visitare i terremotati, ma in forma privata, da sacerdote e da vescovo. E oggi a sorpresa il viaggio. Non sono venuto prima, ha spiegato il Papa, per non creare problemi, non volevo dare fastidio, vi sono vicino e prego per voi. E in silenzio, nella zona rossa, Francesco ha pregato, da solo, tra le macerie. Alle popolazioni colpite dal sisma, l'incoraggiamento. Dobbiamo andare avanti, c'è un futuro. Aiutatevi l'un l'altro. E poi il grazie ai vigili del fuoco. Infine le tappe ad Accumoli ed Arquata del Tronto, le altre località provate dal sisma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte dei migranti anche la Chiesa sprona l'Europa. Dopo gli oltre 6.000 di ieri, anche oggi nel canale di Sicilia ne sono stati soccorsi di migranti 1.800, ma ci sono ancora morti al largo della Libia. Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di alcuni barconi avvenuto al largo delle coste libiche. 305 le persone salvate, tra loro molte famiglie, donne, uomini di nazionalità libica, marocchina e siriana. Le ricerche stanno continuando, mentre è atteso per domani a Salerno un nuovo sbarco di 985 persone. Poche al momento le notizie a disposizione della prefettura. Non si conosce la nazionalità dei migranti recuperati in almeno 6 diverse operazioni. E sempre domani arriveranno, questa volta a Palermo, altre 1.200 persone soccorse in varie operazioni nel canale di Sicilia. I fenomeni migratori oggi pongono una sfida che passa necessariamente per l'integrazione, perché accogliere, nonostante l'Italia lo faccia bene, non basta. Non si possono salvare le persone e poi non offrirgli una possibilità di futuro, ha detto il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, che ha continuato: il tema dell'immigrazione sta togliendo la maschera all'Europa, alle sue ipocrisie e alle sue enormi contraddizioni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana, che vede in primo piano sempre i 5 Stelle. Il ruolo del direttorio e nodo dell'assessora Muraro sullo sfondo della festa di compleanno oggi del Movimento 5 Stelle, che ha spento 7 candeline. Ma intanto facciamo il punto sulle indagini che proseguono. Prima prima l'interrogatorio degli indagati, poi la decisione se chiudere l'inchiesta e avviare l'iter tradizionali o chiedere invece il rito immediato per il futuro processo. Sul caso dei rifiuti la Procura di Roma si avvicina a tirare le fila di un'indagine che pende come una spada sull'intera giunta capitolina tra l'ombra di Mafia Capitale e nuove contestazioni. Oltre a quelle di tipo ambientale per la gestione delle discariche, ora infatti a Paola Muraro si muovono accuse anche per le parcelle lievitate negli ultimi suoi anni da consulente dell'AMA. E indagati insieme a lei per abuso d'ufficio ci sono anche Franco Panzironi, ex presidente già a processo in Mafia Capitale, come pure Giovanni Fiscon, ex DG della partecipata, le cui telefonate private con l'assessora sono state trascritte agli atti, perché forse proprio questo rapporto privilegiato avrebbe permesso a Muraro di veder lievitare negli anni fino a 500.000 euro i suoi guadagni. Questo il sospetto degli inquirenti, e anche di tutto questo l'assessora proverà a dare la sua versione ai PM prima che la chiusura dell'inchiesta incomba sul Campidoglio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi questa notizia della Camera che revoca i vitalizi a Toni Negri e Cesare Previti, uguale provvedimento anche per altri 4 ex deputati ottantenni. La Camera ha revocato il vitalizio perché condannati con sentenza passata in giudicato a pene superiori ai 2 anni. E adesso all'estero, dove l'uragano Matthew è arrivato ad Haiti e per l'isola caraibica si teme un nuovo disastro umanitario. Con l'UNICEF che lancia l'allarme e parla di 4 milioni di bambini a rischio, l'uragano ha toccato terra alle 7 del mattino ora locale, viaggia a 230 km orari e secondo i meteorologi potrebbe portare con sé più di un metro di pioggia con rischio di catastrofiche alluvioni, e la paura cresce anche negli Stati Uniti, dove Matthew potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Haiti, rischia di trasformarsi in una catastrofe a causa delle condizioni già disastrose, come ricordate, in cui ancora vive la popolazione a 6 anni dal terremoto che fece oltre 200.000 vittime. Nel frattempo arrivano buone notizie sul clima. Il voto del Parlamento europeo ratifica l'accordo di Parigi e rende quello di oggi un giorno per l'Europa e per il mondo intero, un gran giorno, a dirlo è la ministra francese Ségolène Royal, presidente di COP21. Il prossimo venerdì, 7 paesi europei che hanno già ratificato l'accordo depositeranno i documenti all'ONU, e con questo atto l'accordo entra definitivamente in vigore perché ha superato la soglia del 55% delle emissioni mondiali. L'Italia dovrebbe ratificare stasera nel CDM. Vedevo anche un'altra notizia che riguarda il Consiglio dei Ministri, cioè che hanno dato il via libera preliminare a 3 decreti legislativi che riguardano le unioni civili, cioè i decreti legislativi che dovrebbero rendere attuabile fino in fondo appunto le unioni civili. E adesso invece parliamo di editoria, torniamo sulle notizie italiane, appunto parlavamo anche prima del Consiglio dei Ministri, alla Camera il via libera al DDL. Come previsto, è arrivato il sì definitivo dell'Aula della Camera al DDL Editoria. La riforma istituisce un fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, alimentato con risorse statali già destinate al settore, riordina i contributi pubblici, prevede misure a sostegno delle imprese in crisi, delega il governo a emanare decreti per la liberalizzazione degli orari e dei punti vendita dei giornali. La legge disciplina poi alcuni aspetti della professione giornalistica, riducendo ad esempio i membri del Consiglio nazionale dell'ordine. Da rivedere quindi il sistema elettorale. Anche in questo caso si tratta di principi che dovranno essere specificati in decreti legislativi del governo. Stesso iter per quanto riguarda le norme destinate a intervenire sui prepensionamenti dei giornalisti. Tra le principali novità c'è anche il tetto di 240.000 euro agli stipendi di amministratori, dipendenti e consulenti della RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico. La scorsa settimana la RAI aveva annunciato di voler applicare alcune deroghe. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia anche spiacevole sul meteo: arriva il vero autunno, da dopodomani sarà appunto freddo e vero autunno sull'Italia con il ritorno della pioggia e il calo delle temperature. E poi oggi è stato assegnato il Nobel per la fisica, era un Nobel molto atteso e in molti si aspettavano che sarebbe stato assegnato alla scoperta dell'anno, quella delle onde gravitazionali previste da Einstein. Per questo ha sorpreso tutti l'assegnazione del premio alle ricerche sui segreti della materia esotica, ossia al modo in cui il comportamento della materia cambia in condizioni estreme. Ad essere premiate quest'anno sono state le ricerche condotte da David Tolles, Duncan Aldan e Michael Kosterlitz. Il merito di questi ricercatori, tutti e tre di origine origini britanniche da decenni negli Stati Uniti e di aver aperto le porte su un mondo sconosciuto fino a una quarantina di anni fa, a descrivere le trasformazioni che portano ad assumere caratteristiche insolite alla materia e anche a nuovi materiali. E adesso, per alleggerire un po', visto che tra poco ci sono gli aggiornamenti per il traffico, sentiamo questa ricerca che svela cosa facciamo in auto mentre guidiamo. Si sa, in auto succede proprio di tutto e adesso è un dato di fatto. Secondo quanto emerge da una ricerca presentata a Parigi da Citroën, noi italiani passiamo circa 5 anni e 7 mesi della nostra vita in macchina, un po' come guidatori e un po' come passeggeri. E il rapporto svela le abitudini più disparate. In macchina c'è chi si pettina, chi finisce di sistemarsi il trucco e chi addirittura si rade la barba. In auto poi si litiga. In media ciascuno di noi nella sua vita litiga 219 volte nell'abitacolo, mentre per almeno 94 volte verseremo lacrime dietro i finestrini, ma soprattutto e in modo particolare per gli italiani la macchina è romantica, per migliaia di volte sarà infatti testimone di baci e per almeno 8 volte, il doppio della media europea, si trasformerà in camera da letto. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche chi si mette le dita nel naso, ma su questo sorvoliamo, capita spessissimo quando ci si guarda attorno nel traffico, ma adesso dobbiamo appunto dare la linea al traffico. Voi continuate a interagire con la pagina Facebook di Effetto Notte e anche con il numero per i messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666. Per esempio Francesco, sui 7 anni del Movimento 5 Stelle, dice: un fenomeno interessante all'inizio, l'antipolitica che unisce in maniera trasversale gli scontenti d'Italia tramite il web, in nome dello sdegno verso l'arroganza della casta e di alcuni spunti di rilievo che emergevano nei discorsi di Grillo, poi dice l'impatto con la realtà. Ci sentiamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ricordo tra pochissimo, se l'avete acceso la radio puntualmente alle 21, sempre Roberta Giordano con voi. Allora, avete sentito come sempre il riassunto della giornata, adesso cominciamo ad approfondire diversi temi. Siamo di nuovo tra poco sulla politica, vedo ancora i vostri messaggi sul Movimento 5 Stelle che oggi compie 7 anni, un altro è sulla morte di Cucchi, le abbiamo sentite tutte tranne una, si è ovviamente suicidato. Immagino che sia ovviamente ironico l'ascoltatore. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero 349-238-6666. E per esempio anche sulla pagina Facebook, a parte il commento che ho letto prima sul Movimento 5 Stelle, Maurizio che fa gli auguri come molti attivisti sui social. Poi invece c'è Ilaria che scrive: inutile occuparsi dei 5 Stelle, sono autistici, non accettano alcun contraddittorio, insultano, negano la realtà, quando sono in un impasse altro non dicono che allora voi ignoriamoli, poi spariti dai media vediamo se diverranno a un onesto confronto. Insomma, mi sembra un atteggiamento fin troppo duro. Sicuramente questo è un momento di difficoltà per quanto riguarda Roma, vediamo un po' come procede, ne parleremo tra pochi istanti, però adesso vi ricordo i titoli in primo piano. Renzi e il PIL, dice, vedremo chi ha ragione sulle previsioni per Padoan, l'ambizione è realizzabile, mentre però il Fondo Monetario Internazionale dice che l'Italia è fanalino dell'Unione Europea e taglia la crescita, le previsioni di crescita. Il Papa in silenzio tra le macerie dei paesi colpiti dal sisma lo scorso agosto, il ringraziamento ai soccorritori e abbraccio ai terremotati. Scusate, nuova perizia sul caso Cucchi, si parla di morte improvvisa per epilessia, nessun nesso quindi con le lesioni, con le fratture, ma la sorella ribadisce è morto per il pestaggio e le fratture. Sentiremo, dovremo raggiungere l'avvocato della famiglia Cucchi per farci chiarire quest'ultimo atto istruttorio. Grillo Casaleggio: a Roma festeggiano il compleanno 7 anni del Movimento 5 Stelle, dice Grillo, siamo più forti che mai. C'è il caso Muraro, l'assessora alla Giunta Capitolina che dice pieno appoggio della sindaca Raggi, ma pare che il Movimento 5 Stelle stia studiando quella che si chiama un exit strategy, cioè un modo di uscire un po' da questa situazione. E poi presidenziale 2016, presidenziale americana, Hillary Clinton torna a volare nei sondaggi, mentre il fondatore di Wikileaks, Assange, annuncia nuove rivelazioni sulla campagna elettorale e le presidenziali americane. E poi la Camera italiana che revoca i vitalizi a Toni Negri e a Cesare Previti, uguale provvedimento per altri 4 ex deputati ottantenni perché le loro condanne sono superiori ai 2 anni. E poi il Nobel per la fisica è stato assegnato oggi alla scoperta del volto esotico della materia, il primo andato a 3 britannici che aprirono le porte a nuovi materiali. Santos. Con questo inno il Movimento 5 Stelle oggi ha festeggiato a Roma i 7 anni. Questo è l'inno del Movimento 5 Stelle, è un amore così grande, una vera e propria festa di compleanno c'è stata oggi a Roma. C'erano anche Grillo e Davide Casaleggio insieme ai parlamentari del Movimento, e hanno festeggiato proprio con la torta, una vera e propria festa. E c'è stata questa valanga di auguri da parte degli attivisti, dei vari social network. Intanto però ieri è stata una giornata particolarmente intensa, tra ieri e oggi in realtà, perché ieri c'è stato l'addio del sindaco di Parma Pizzarotti, che era stato sospeso dal Movimento per un'inchiesta dalla quale però è stato prosciolto da circa 140 giorni, e ieri ha deciso basta, io con questo Movimento non voglio avere più niente a che fare, è cambiato, sono ormai degli arroganti, ignoranti, incapaci di governare. Il congedo di Grillo ieri nei confronti di Pizzarotti è stato freddissimo, perché sul blog ha scritto: arrivederci pizza, ciao, goditi questi 15 minuti di notorietà. Oggi, uscendo dalla riunione, dal festa che c'è stata con i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Grillo ha detto: siamo più forti che mai, siamo compatti. Però c'è questa spada di Damocle, come la vogliamo chiamare, dalla giunta capitolina all'assessora Muraro, l'assessora all'ambiente, fa sapere di avere il pieno appoggio della sindaca Raggi, nonostante torni nella bufera, perché una bufera giudiziaria indagata per reati ambientali connessi alla passata attività di consulente dell'AMA, cioè della società che si occupa a Roma della spazzatura, ma soprattutto per abuso di ufficio insieme agli ex manager dell'azienda municipalizzata Giovanni Fiscon e Franco Panzironi, entrambi coinvolti nel processo Mafia Capitale. Ne vorrei parlare con Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Buonasera, Angelo. Eccomi, buonasera, eccomi. Allora, intanto il bilancio di questi 7 anni, come del compleanno di questi 7 anni del Movimento 5 Stelle, come li commenteresti? Ma se partiamo dagli ultimi episodi, questi romani, direi male, è stata una parabola discendente, e ahimè, io ho creduto nella Raggi alla guida di Roma, dopo le porcherie che l'avevano preceduta, ma devo dire che si sta rivelando persona non adatta, incapace a governare, una bella icona elettorale, ma non riesce a prendere una decisione che sia una adatta ai tempi e alle necessità. E in generale il movimento grillino, se seguiamo lo schema sociologico per cui un movimento diventa istituzione e quindi inevitabilmente poi deve adeguarsi all'essere non più libero come movimento, ma dover mediare con le regole dell'istituzione, insomma. Angelo, ti sentiamo poco con il telefono. Forse sì. aggiusto perfetto, l'apparecchio. Perfetto. Dicevo, mi sembra che abbiano espresso oramai il meglio di sé. Il direttorio, che era un'entità metafisica, pare non ci sia più. Il candidato premier Di Maio, simpatico ragazzo, ma un trentenne di professione webmaster, è scomparso dopo le gaffe. E la incapacità rivelata. Mi sembra ancora Grillo in primo piano, però, Angelo, Di Maio, che oggi ha detto, uscendo da questa riunione: siamo la meraviglia di vedere l'impossibile che diventa possibile, mentre tutti dicono che non ce la farai. Se il movimento oggi compie 7 anni, vuol dire che ci sono persone in Italia che partecipano a questo progetto da almeno 11 anni, sto leggendo da Facebook, niente si improvvisa, quello che siamo oggi è il frutto di una lunga marcia, e dice: presto arriveremo al governo di questo paese, nonostante stiano dicendo che è impossibile. Io capisco le ragioni che inducono i vertici del 5 Stelle a usare questi toni, ma da quello che a me risulta, avendo amici interni ai 5 Stelle, sono nel pieno caos e nell'assoluta improvvisazione politica, giuridica, di tanti ragazzotti approdati alla politica sull'onda di una protesta e di un vaffa, come diceva Grillo, che si trovano a gestire una forza superiore alle loro attese e che ci hanno inferto una grandissima delusione, tant'è che lo stesso Grillo, che pure aveva creato un mostro che non riusciva più a gestire, aveva annunciato "vi saluto", aveva ricominciato a fare i suoi concerti, i suoi spettacoli. Nei quali ironizzava sui grillini e diceva: ma io che ci faccio in politica? Adesso vuole convincerci che è tornato da leader e tutto questo non funziona più. Secondo me è una storia finita e con le vicende della Raggi e della Muraro il quadro è del tutto chiaro, non vanno da nessuna parte. Angelo, adesso questa questione della Muraro, intanto devo dire che ovviamente ribadiamo che la situazione di Roma, che è sul baratro, non è stata creata sicuramente dal Movimento 5 Stelle, è che però al momento insomma non si vedono grossi spiragli. Bisogna anche dire che però la sindaca Raggi ha una tenuta psicologica eccezionale, un'altra al posto suo avrebbe avuto, non so, un esaurimento, cioè la situazione è complicata, però quello ma che la non tenuta si... psicologica è una precondizione necessaria, ma ahimè non è sufficiente. Roma l'ha governata. Però quello che non si capisce, Angelo Perrino, è per quale motivo Raggi tiene così solidamente stretta l'assessora Muraro, che adesso insomma sono diverse le indagini, è complicato poi tutta questa inchiesta, questo intreccio di inchieste. E Muraro oggi ha proprio detto: non ho mai pensato di dimettermi, continuo a lavorare per i romani, ho il pieno sostegno della sindaca Raggi. Come mai? E infatti questa è una delle tante cose che non si capiscono. Si capisce che Grillo, nei limiti in cui gli è possibile, prende le distanze. Si capisce che Di Maio dice sono decisioni della Raggi, così ha commentato la nomina degli ultimi due assessori. Quindi, insomma, è un movimento dilaniato da divisioni, destra, sinistra. Si sa che c'è una parte del movimento che viene da destra, gli stessi Di Maio e Di Battista hanno origini a destra, c'è una parte di movimento che invece viene da sinistra. Io credo che siamo davanti a un'implosione. Mi spiace perché io ho sostenuto l'utilità di un movimento che facesse trasparenza nel sistema Italia e discontinuità. Affari Italiani, il mio giornale, ha sostenuto questa posizione. Ma oggi bisogna prendere atto che si stanno squagliando, stanno implodendo. Diamo io ancora un po' di tempo, Angelo Maria Perrino, magari non cantiamo subito il funerale. No, per carità, ma magari se riescono a riprendersi. Però diciamo, come dicono i rumors, devono trovare una exit strategy, una strategia di uscita da questo impasse, da questa situazione anche imbarazzante. Questa Muraro tutti i giorni, oramai tutti i giorni si percepiscono le difficoltà di gestire una persona che ha rapporti così col passato, con Roma Capitale, con Cerroni, con il re delle discariche romane, insomma da dove l'hanno pescata e perché la Raggi è così immedesimata in questo e non le dice vai a casa e perché ella non si dimette togliendo un problema. Si capisce che lì c'è qualcosa che noi non sappiamo, che tiene legati questi personaggi a tal punto che, come dicevano i latini, simul stabunt, simul cadent, cioè se cade la Muraro cade anche la Raggi. Insomma, speriamo che questo nodo si sciolga nei prossimi giorni per il bene della giunta capitolina di Roma e ovviamente dell'Italia, visto che la sua capitale. Il PD oggi, l'abbiamo scritto su Affari, abbia annunciato la disponibilità a fare larghe intese, a sostenere la Raggi. Quindi siamo non credo che sarà accettata questa cosa. Comunque, grazie intanto al direttore di Affari Italiani.it, Angelo Maria Perrino. Grazie, Angelo. Grazie a voi. Grazie, buona serata. E intanto poi, comunque, Grillo, uscendo oggi da questa riunione di ore con i parlamentari, ha detto in inglese good movement in bad moments, cioè il movimento è buono, i tempi meno, una frase un po' sul filo dell'ironia e, insomma, lascia Montecitorio, a quanto pare, consapevole probabilmente che questi due giorni di riunioni con i senatori e deputati 5 Stelle non basterà a trasformare il Movimento 5 Stelle. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto tra poco cambieremo tema, dovremo raggiungere l'avvocato, il legale della famiglia Cucchi per capire in cosa consiste questa nuova perizia e se è vero che questi periti dicono che il povero Cucchi è morto per epilessia. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Vogliamo sentire un po' di Crozza appena iniziato sulla 7? Dei momenti importanti come questa sera. È un momento importante per me vedere Del Rio in studio. C'è Del Rio in studio, vero Giova? Dovrebbe essere, eccolo qua. A Di Martedì. Eccolo qua, buonasera Del Rio. Perché ricordati, no ma Giova guarda, ricordati che Del Rio... Il ministro Del Rio è un uomo forte, Giova. è un uomo volitivo, un uomo determinato. Perché? Perché è un uomo che non ha il timore di dire quello che pensa Renzi. Bene, su questa battuta ci risentiamo tra poco. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presento. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato di politica del Movimento 5 Stelle che compie 7 anni. Qual è il bilancio? Voi state scrivendo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, anche attraverso i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Vogliamo strapparci un altro sorriso? Vogliamo sentire ancora Crozza un secondo sulla 7? Cosa dice? Ha detto al referendum si vince coi voti della destra. Parlando di Renzi. È giusto. È ineccepibile. Se sei di destra, cioè è ineccepibile se sei di destra. Se sei di destra non fa una grinza. Cioè se sei brunetta va bene. Quindi dunque Renzi, ti chiedo una cosa, dunque vuoi fare il ponte sullo stretto? Il tuo migliore amico è Verdini e parli come brunetta. Ma scusa Renzi, a te nel PD ti hanno adottato, cioè ti hanno lasciato. Bene, ritorniamo in noi. E tra poco dovremo raggiungere l'avvocato, il legale della famiglia Cucchi, visto che è stata depositata questa nuova perizia chiesta dai PM in questa inchiesta bis, secondo la quale pare, secondo le loro conclusioni, Stefano Cucchi, morto nel 2009, sarebbe morto per un attacco di epilessia. Cerchiamo di raggiungere l'avvocato, non è facile perché è particolarmente preso poi in queste ore. E tra poco invece ci sposteremo negli Stati Uniti. Intanto leggo un altro messaggio a proposito della giunta Raggi. Salve, scusate, io non sono certo un genio, ma penso che dovendo cercare di gestire il problema dei rifiuti in una città come Roma, dove hanno governato benissimo destra e sinistra, tenere la Muraro in giunta, che era a conoscenza dei contratti di entrambi gli schieramenti, sia il modo migliore per cercare di gestire e risolvere la situazione. Brava Raggi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte. Essere che la scelta sia stata motivata inizialmente per questo, però a fronte di tutte queste inchieste, di queste indagini eccetera, allora poi si rischia di avere ragione Pizzarotti, che dice sono due pesi e due misure come si comporta il Movimento 5 Stelle in questi casi. Però aspettiamo, come dice qualcuno, aspettiamo di vedere Raggi, d'altronde dice sono nuovi della politica, e aspettiamo di vedere come procedono. Adesso però vi ricordo quali sono le notizie più importanti e poi, come vi dicevo, ci aggiorniamo sulle presidenziali americane. Conti pubblici, il ministro Padoan replica le critiche, conferma il PIL al più 1%, dal Fondo Monetario Internazionale però ancora un taglio delle stime di crescita dell'Italia. Il caso Cucchi, una nuova perizia dice che è morto per epilessia, la sorella replica furono le fratture dovute al violento pestaggio. Effetto notte, dovremmo raggiungere il legale della famiglia Cucchi. La visita a sorpresa del Papa nei comuni terremotati, non sono venuto prima, dice Francesco, per non dare fastidio, e prega in silenzio tra le macerie. Migranti, dopo gli oltre 6.000 di ieri, anche oggi nel canale di Sicilia ne sono stati salvati 1.800. I 7 anni del Movimento 5 Stelle, Grillo e Casaleggio a Roma festeggiano il compleanno, siamo più forti che mai, dice il leader. E intanto l'assessora Muraro dichiara: ho il pieno appoggio della sindaca Raggi, ma il Movimento 5 Stelle studia un exit strategy. La presidenziale americana ne parleremo tra pochi istanti, e poi per l'editoria la riforma è ormai legge, e Nobel per la fisica va alla scoperta del volto esotico della materia, il premio andato a 3 britannici che aprirono le porte a nuovi materiali. Saluto Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao a voi. Allora, presidenziali americane. Pare che Hillary Clinton torni in vantaggio nei sondaggi. Addirittura qualcuno titola torna a volare. Ci sarebbero, secondo la NBC, i sondaggi pubblicati da NBC, in vantaggio di 6 punti sarebbe la Clinton su Donald Trump con il 46% delle preferenze. Anche la CNN dà la candidata democratica in forte recupero con 5 lunghezze di vantaggio. Ci confermi, Marco? Direttamente dai States? Sì, direi che le novità nei sondaggi di questi ultimi giorni sono proprio queste. Hillary Clinton è tornata, diciamo, in vantaggio abbastanza netto su scala nazionale, grazie, diciamo così, soprattutto alla tendenza. Marco, scusami Marco, sei dentro una friggitrice per caso? Di qualche McDonald's? No, in realtà non ancora, anche se è possibile. Ti sento un po' friccicolo. Sono un po' di telefono. Sì. Saranno i russi che su ordine di Trump sabotano il telefono. Tu cerca di parlarci il più chiaramente possibile, così non ci facciamo sabotare. Di essere il più chiaro e semplice possibile. Niente, hai assolutamente ragione, la novità è di questi giorni che i sondaggi danno nuovamente con un netto vantaggio della nazionale Hillary Clinton, e questo, diciamo, lascia pensare che a questo punto Trump deve un po' giocarsene tutte le sue carte se vuole recuperare nei prossimi dibattiti presidenziali. Soprattutto nel weekend negli ultimi giorni ha avuto numerose gaffe, o anche più che gaffe, che hanno sicuramente pesato. Delle rivelazioni, no, su di lui, vari, che insomma, mentre qui addirittura qui una mitragliatrice mi sembra di sentire, Marco, non so, vabbè che sei negli Stati Uniti, però, ecco, senti... Purtroppo, strani che sento anch'io, no? La linea oggi è molto disturbata, molto disturbata, torbida, secondo me lo torbida come il film elettorale. Già, a proposito di torbido, Julian Assange, il cofondatore di WikiLeaks, promette nuove rivelazioni anche sulle presidenziali americane. Ti giunge qualche anticipazione, qualcosa? Cosa potrebbe raccontare? Un'anticipazione difficile averle da Assange, ma l'idea che lui aveva così lasciato trapelare già nel recente passato che avesse in serbo ulteriori rivelazioni, forse sulla Clinton, sulle email così scomparse o distrutte dalla Clinton, quindi questo tiene ancora viva un ulteriore così elemento di suspense sulla campagna elettorale, accanto ai continui scandali che, appunto, come dicevamo, sembrano colpire Trump, insomma, che sono andati appunto dalle gaffe così verbali a inchieste sui suoi rapporti di business con l'Iran, oltre che appunto con la Russia e Cuba, quando ancora c'era l'embargo, fino appunto a inchieste sulla sua fondazione, su come siano stati usati a fini personali i fondi della sua fondazione ufficialmente caritatevole. Marco, devo purtroppo congedarci perché si sente piuttosto male e non vorrei appunto che poi i russi arrivassero fin sotto qui la radio. Marco Valsania, grazie, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, speriamo la prossima volta di sentirti più lucidamente, più nettamente, insomma, più limpido, non per colpa sua, suo malgrado. Adesso sentiamo invece bene gli aggiornamenti per chi viaggia, intanto continuano le vostre interazioni qui a Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma e anche al 349-238-6666. Per esempio dice Clotilde: ma la Raggi ci fa perché non sfiducia la Muraro, è un incapace, fa crollare la fiducia nei 5 Stelle. A tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra pochi secondi, Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo appena parlato delle novità che ci sono sulle presidenziali americane, anche se con una linea un po' disturbata da New York. Comunque Hillary Clinton, che è in un certo vantaggio, di nuovo recuperato su Trump dopo aver avuto dei momenti di difficoltà anche per le rivelazioni piuttosto pesanti su Trump che ci sono state nei giorni scorsi. Stiamo ancora cercando di raggiungere il legale della famiglia Cucchi su questa nuova perizia che è stata fatta, che parla di morte per epilessia, l'ennesima perizia e l'ennesima morte, forse potremmo dire, di quante morti è morto Stefano Cucchi. Ne parleremo, se riusciamo, tra pochissimo con l'avvocato. Invece adesso vi ricordo le notizie più importanti e poi c'è lo spazio europeo, mentre voi potete continuare a interagire qui a Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma, è al 349-238-6666. Sì, i titoli prima e subito dopo dovremmo aver raggiunto il legale, sì. Renzi e il PIL, dice, vedremo chi ha ragione sulle previsioni. Per il ministro Padoan l'ambizione è realizzabile, ma intanto il Fondo Monetario Internazionale dice che l'Italia è fanalino dell'Unione Europea. Il Papa in silenzio oggi tra le macerie dei paesi colpiti dal sisma, il ringraziamento ai soccorritori e l'abbraccio ai terremotati. Nuova perizia sul caso Cucchi, ne parliamo adesso. Saluto l'avvocato Anselmo, buonasera avvocato. Buonasera a voi. So che lei in una trasmissione televisiva si è staccato appunto perché avevamo preso questo appuntamento. La ringrazio perché ricordiamo la vicenda drammatica senza fine ormai della morte di Stefano Cucchi, il geometra romano di 31 anni, morto, vi ricordate, il 22 ottobre 2009, una settimana dopo il suo arresto, arrestato perché trovato in possesso di 29 grammi di hashish. E adesso è in corso una inchiesta bis. 2 grammi. Ah, ho visto 2 grammi sì, addirittura, quindi ancora meno. In quell'occasione sì. Sì. Dunque, una vicenda, dicevo, che è passata negli anni attraverso una serie di processi che hanno visto sul banco degli imputati medici, infermieri, agenti della penitenziaria, carabinieri, e poi la sola condanna dei medici del Pertini, dell'ospedale Pertini, in primo grado per omicidio colposo, cerco di sintetizzare, l'assoluzione di tutti in appello, il ritorno dalla Cassazione per gli stessi medici e la loro assoluzione nel nuovo giudizio di secondo grado, e nel frattempo una nuova inchiesta che vede indagati 5 carabinieri per lesioni personali aggravate, abuso d'autorità e 2 anche per falsa testimonianza. Allora, avvocato Anselmo, la notizia di oggi è che in questa inchiesta bis i periti incaricati dal PM avrebbero concluso che Stefano Cucchi è morto per un attacco epilettico. Ma non è vero, cioè è questo che veramente, come ho appena detto, finito di dire in televisione, siamo rimasti basiti. Non è vero. Prima, diciamo, hanno formulato 2 ipotesi. Guardi, io premetto, ho denunciato 3 volte il perito Introna. Questo per dirle che certamente non sono legato da particolari simpatie o diciamo slanci di difesa nei suoi confronti. Io mi limito a registrare quello che c'è scritto nella perizia. Le perizie vanno lette tutte. Il perito Introna formula 2 ipotesi. La prima è di epilessia, ma non da sola. Di epilessia in un soggetto, come viene definito, gravemente maciato, cioè in condizioni pregiudicate, sia dalla magrezza, sia anche dalle condizioni fisiche in cui si trovava, quindi di politraumatizzato, ricoverato al Pertini per estrema urgenza, perché Regina Coeli ricovera Cucchi al Pertini con 2 provvedimenti di estrema urgenza a seguito del politraumatismo. Questa è la verità. E mi dice il perito Introna che questa epilessia, insieme agli analgesici e alla condizione pregiudicata, defedata che aveva Stefano, ha contribuito alla morte. Quindi chi ipotizza che questa, il fatto di nominare l'epilessia possa liberare dalla responsabilità gli autori del pestaggio, credo che tradisca la paura che probabilmente ha avuto nel leggere queste pagine. Ma quindi, mi scusi, avvocato Anselmo, quindi i titoli dei vari media sono sbagliati, che dicono, guardi, improvvisa per epilessia, nessun nesso con le lesioni, scrivono, vedi, tra virgolettato. È rischioso affidarsi all'estrapolazione di singole frasi, bisogna leggerlo nel suo complesso. Ora, io dovrei parlare con voi per un'oretta, ovviamente il tempo a disposizione non c'è, e probabilmente qualcuno conta su questo. Cioè, sono parole che vengono usate dal perito, ma poi bisogna leggere tutto il pensiero. Vede, è come quando un avvocato prende una sentenza della Cassazione e poi estrapola soltanto le parti della motivazione che sono a lui favorevoli, ignorando quelle che sono invece sfavorevoli, e il provvedimento finale ovviamente è diverso se si analizza solo quelle favorevoli, omettendo di considerare quelle sfavorevoli se sono poi esse conclusive. Avvocato Anselmo, a questo punto come stanno le cose e come procedete? Questa è un'inchiesta bis molto complessa, perché appunto ho detto una serie di processi, le persone, gli ascoltatori fanno anche fatica a capire. Sì. Il problema è molto semplice. Intanto in questa perizia si riconosce la seconda frattura, cioè L3, che era stata negata. La vertebra lombare. Certo, ma dobbiamo capire da dove veniamo. Quando Ilaria dice stiamo facendo un passo avanti faticoso verso la verità, noi veniamo da un processo di primo grado dove il professor Albarello, il consulente della procura, aveva detto che tutte le lesioni modeste riportate da Stefano Cucchi, modeste, lievi, erano dovute ad una caduta, e aveva negato L3, ivi compreso anche i periti nominati dal giudice. Adesso abbiamo, viva Dio, 2 fratture vertebrali e lesioni gravi se non gravissime. Poi il perito Introna fa 2 ipotesi. La prima, cioè quella dell'epilessia, cioè di un ruolo comunque dell'epilessia in un soggetto non sano, ma in un soggetto che era già gravemente provato, defedato dal pestaggio e dalla magrezza, quindi c'è il nesso causale e anche degli analgesici, produce diciamo, rallentamento del battito cardiaco fino alla morte, quindi qui c'è il nesso causale tutto contrario. Nel secondo, la seconda ipotesi, in questa ipotesi dice chiaramente che però è completamente priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Quindi già mi dica lei quale giudice può prendere in considerazione un'ipotesi che è dichiarata dallo stesso perito completamente priva di qualsiasi elemento di carattere obiettivo, di riscontri di carattere obiettivo. Poi prende in esame la seconda ipotesi. Abbiamo ancora 30 secondi, avvocato Anselmo, mi perdoni perché appunto non siamo riusciti a contattarla. Certo, prima. Purtroppo vede, il problema nostro è proprio questo, che non riusciamo a spiegare bene la questione. Il secondo è invece il cuore si ferma a causa del globo vescicale, cioè di un sovradimensionamento della vescica. Dobbiamo... che dice... Dobbiamo proprio lasciarci, ma avremo modo di risentirci, che abbiamo tentato più volte di collegarci. Intanto le auguro buon lavoro, buona serata, avvocato Anselmo. A presto. A voi. Grazie. Noi ci risentiamo alle 22.